in viaggio per gli Stati Uniti, a cura di Viaggi di Cultura di Bologna, la Coit Tower a San Francisco. C'è un luogo in San Francisco che è abbastanza poco visitato e che a mio avviso merita di essere visto perché condensa una molteplicità di situazioni americane molto indicative. Parlo della torre Coit Tower, detta anche la Torre dei Pompieri, su Telegraph Hill. Chi non è interessato alla storia dell'arte o alla storia americana vada comunque in questo luogo, su questa torre, perché da lì, dalla sommità di questa torre, si gode di una vista panoramica di San Francisco assolutamente straordinaria. Perché questa torre per me è così importante? Io al punto da dedicare qualche secondo di riflessione. Negli anni della grande crisi, successivi alla grande crisi, parlo dopo il 29, mi pare esattamente tra il 1933 e il 1938, grosso modo, una organizzazione federale, e cioè di tutti gli Stati Uniti, si incaricò di organizzare e dare lavoro ai numerosi artisti che stavano letteralmente morendo di fame. Non c'era lavoro, non c'era occupazione, e se soffrivano operai e contadini si può immaginare quanto dovessero soffrire pittori, che sono per definizione la prima cosa ad essere saltata non appena le cose dal punto di vista economico vanno meno bene di altre. Bene, un programma federale decise di affidare a dei pittori che in quel momento risultavano disoccupati o ai margini della vita sociale il compito di dipingere, decorare alcuni ambienti federali o comunali in giro per gli Stati Uniti con murales. La cosa non era nuova, cioè era iniziata negli Stati Uniti già da tanti anni, e in particolare la famiglia Rockefeller aveva incaricato Diego de Rivera di dipingere un grande murale in New York, in quella che era la base, l'ingresso della RCA, poi sarebbe diventato il Rockefeller Center in New York, un dipinto che aveva suscitato grandi problemi perché, insomma, di fatto Diego de Rivera, apprezzatissimo dalla famiglia Rockefeller, però non aveva rinunciato a introdurre nel dipinto elementi che richiamavano alla rivoluzione bolscevica, a Lenin, alla Russia, e quindi questa cosa venne in qualche modo bloccata. Il dipinto addirittura venne distrutto, venne completato e subito dopo distrutto, e questo generò in giro per gli Stati Uniti una sorta di mobilitazione. Ma insomma, Diego de Rivera viene chiamato dalla famiglia Rockefeller, fa una cosa molto bella, e poi questa casa viene distrutta semplicemente perché c'è Lenin. E quindi in San Francisco, dove i soldi federali davano lavoro a questi artisti, si creò una sorta di piccola mobilitazione. E cioè gli artisti della California, o che in California erano confluiti, nella Coit Tower cercarono di dipingere qualche cosa che ricordasse il dipinto di Diego Rivera distrutto. E quindi in qualche modo fu una protesta artistica non priva di interesse. Ma il motivo per cui si va a vedere quell'affresco, è quasi tutto affresco, non è soltanto o unicamente per questa manifestazione di protesta che in qualche modo si oppone a quello che era avvenuto a New York, ma perché attraverso questi murales gli artisti dell'epoca, e quindi stiamo parlando di un periodo che precede immediatamente la Seconda Guerra Mondiale, in piena crisi economica, rappresentano la California nella vita di tutti i giorni. Ed è, mi si creda, uno spettacolo quasi commovente. Abituati a immaginare l'America come un paese violento, che siano cowboy o che siano terroristi o antiterrorismo, in ogni caso l'immagine che l'America esporta molto volentieri di se stessa è quella di un paese violento dove si vive poco volentieri, attraverso questi murales d'improvviso ci si rende conto della qualità straordinaria non dell'America, ma del popolo americano. sono scene di vita di tutti i giorni, sono scene di vita ordinaria. I protagonisti non sono modelle, attori e presidenti della Repubblica o grandi generali, sono persone di tutti i giorni. E vedere la vita delle persone normale, la vita delle persone di tutti i giorni, celebrata in questo modo così importante, è come un senso di leggerezza infinito. Uno entra nella Koi Tower e in qualche modo si sente anche lui partecipe di questa forma di rispetto per la vita delle persone normali, comuni, e per la vita di tutti i giorni. Ed è questo il grande anche eroismo, se vogliamo, degli Stati Uniti o della cultura americana. È una cultura dell'uomo comune, dell'uomo qualunque. In America l'uomo di tutti i giorni, l'uomo semplice, può trovare rari momenti di celebrazione della sua vita. La Koi Tower a San Francisco è certamente una di queste. Viaggi di Cultura tornerà con un nuovo episodio di Un viaggio per gli Stati Uniti la prossima settimana.